24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Mi dimetto da ministro. L'ho deciso per la mia dignità. E la cosa più importante che ho è la voglio salvaguardare a qualunque costo. Ho deciso di lasciare un ministero e di lasciare un governo perché la mia dignità vale più di tutto questo ed è stata offesa da chi sa che non ho fatto nulla e avrebbe dovuto invece spiegare perché era suo dovere prima morale e poi politico. Non posso restare in un governo che non ha difeso la mia onorabilità. Nunzia De Girolamo, da ieri nuovo capogruppo alla Camera del Nuovo Centrodestra. Ecco, abbiamo sentito la sua lettera di dimissione dal governo Letta. Contenta di averla fatta? Buongiorno, Minoli. Buongiorno. Assolutamente sì, assolutamente contenta di averla fatta e di aver preso una decisione in autonomia e in libertà. Ecco, ma le motivazioni morali quali sono state? Come ho spiegato nella mia lettera, la difesa della mia dignità, perché credo che l'onorabilità di una persona valga più di qualsiasi incarico e quindi non c'è nessuno che possa difenderla al di là di se stessi e io non ho aspettato, non ho perso tempo, ho deciso di lasciare quell'incarico. Sì. E quelle politiche? Guardi, il Presidente del Consiglio, comunque il mio governo non mi ha difeso, come ho detto in diverse occasioni, e quando il Presidente Letta ha riconosciuto il valore del mio lavoro, mi sarei aspettato una parola garantista. Senta, io ho letto la sua intervista oggi al Corriere del Mezzogiorno. Adesso però chi complottava contro di lei è sotto accusa. Insomma, chi la fa l'aspetti? Beh, come ho detto anche a Polito, io sono una garantista e lo sono con gli amici e con i non amici. E non sarò uno sciacallo come tanti lo sono stati con me. Senta, ieri il ministro Boschi ha detto che con l'avviso di garanzia non bisogna dimettersi, parlava dei quattro sottosegretari. Vuol dire che con il governo Renzi in qualche modo c'è un cambio di linea sulla giustizia? Questo è l'augurio mio, del partito di cui faccio parte e credo di tutti in questo paese. Abbiamo vissuto anni di grandi conflittualità fra i poteri dello Stato, il potere legislativo, il potere giudiziario e siamo arrivati ad escludere le persone dal Parlamento solo attraverso un'indagine o attraverso le accuse costruite ad arte o illegalmente, come è successo anche nel mio caso. Quindi speriamo. Spero che non ci sia più la doppia morale del Partito Democratico, perché sentivamo delle parole ieri, ne sentiamo altre oggi. Forse Renzi sarà capace di rottamare anche questo, io me lo auguro. Senta, intanto parliamo di voi, del Nuovo Centrodestra. Senta a che punto sono arrivati Berlusconi e Alfano. Silvio Berlusconi in questi anni si è circondato da troppi idioti inutili. Idioti inutili! Da troppi inutili idioti! Senta, ma tra padre e figli si può arrivare fin qua in politica? Purtroppo siamo arrivati fino a quel punto. Berlusconi ha dato dell'utile idiota ad Alfano, Alfano ha risposto che troppi sono gli inutili idioti. Io l'ho detto anche in altre occasioni, ora basta, noi dobbiamo marciare divisi e colpire uniti e dobbiamo essere più intelligenti della sinistra, che troppo spesso per le conflittualità interne ha perso tutte le elezioni e si è ritrovato nelle situazioni che abbiamo visto anche. Ecco, onorevole Di Girolamo, ma crede che sia una rottura, quindi non crede che sia una rottura definitiva, diciamo? Assolutamente no, no. Ah, ecco. Perché se Berlusconi un giorno vuole vincere dovremmo ritrovarci tutti. Senta, ma intanto sulla legge elettorale, Renzi e Alfano battono Berlusconi 1-0, è così? Beh, troppo facile, Minoli, non è una lettura classica, soprattutto non è una lettura sua che è fin troppo intelligente per dire questo. E in realtà la verità è che tutti stanno cercando di concorrere per fare una legge elettorale che possa rendere finalmente governabile questo paese. E ci sarà insomma questa legge, lei ci crede? Se non ci sarà, sarà una tragedia per tutti e per la credibilità della politica. Ecco, Renzi ha detto, io con l'abolizione del Senato mi gioco la testa, se la salverà la testa? Io penso che non la voglia perdere, se lo conosco un po' ci tiene abbastanza la sua testa. Senti, Mario, vuoi una domanda? Sì, no. Marciali divisi, colpi riuniti. Buongiorno, sono Mario Secchi, buongiorno. Buongiorno. Allora, se marciali divisi, colpi riuniti, la domanda secca è: ma perché allora siete al governo col centro-sinistra? Ma noi siamo al governo col centro-sinistra ed è anche il motivo per il quale non siamo più in Forza Italia. Ritenevamo e continuiamo a ritenere che questo paese ha bisogno di essere governato. Se andassimo al voto immediatamente avremmo di nuovo un governo di larga intesa, vista la legge elettorale. C'è un momento di emergenza e noi siamo alleati del paese, non del centro-sinistra, nell'interesse dei cittadini. Berlusconi ha fatto un'altra scelta, poi è tornato indietro sulle riforme elettorali. Siamo contenti che oggi collabori per fare queste riforme. Pietrangelo, una domanda anche tu? Sì, buongiorno, sono Buttafuoco. Buongiorno. Una domanda a proposito di andare al governo, di stare al governo col centro-sinistra, poi c'è anche la possibilità di andare al governo con gli sciagurati. Ma come salta in mente al nuovo centrodestra di andare ad appoggiare in Sicilia Rosario Crocetta? Quello sta per essere abbandonato dal Partito Democratico e il nuovo centrodestra invece pensa di allungargli la vita politica? Ma guardi, le questioni strettamente siciliane... Chiedo scusa, non strettamente siciliane. No, è un caso politico, è come il caso Ignazio Marino a Roma. Cioè, è come se il nuovo centrodestra decidesse di appoggiare Marino, quello è ancora peggio. Beh, io non lo sosterrei mai Marino, ecco. Personalmente. Vabbè, ci ha dato la risposta, la risposta. La risposta in diretta. Senta, onorevole Di Girolamo, un'ultimissima cosa, ma se è vero che Berlusconi si sposerà Francesca Pascale, lei ci andrà al matrimonio? Guardi, se mi invitano io ci andrò con tanto piacere, lancerò anche un po' di riso per festeggiare, per brindare alla loro felicità. Speriamo solo che Dudu non mi morda. grazie a lei. Pensate alle esperienze di fallimento che voi avete sperimentato di fronte a questa realtà. Giustamente voi vi chiedete: che cosa possiamo fare? Certamente una cosa da non fare è quella di lasciarsi vincere dal pessimismo e della sfiducia. Voi giovani non potete e non dovete essere senza speranza. La speranza fa parte del vostro essere. Un giovane senza speranza non è giovane, è invecchiato troppo presto. Queste le parole di Papa Francesco, parole alte, vere, ma in concreto. Che cosa si fa? E che cosa si può fare per non farsi rubare la speranza? Arrivano circa 1,4 miliardi di euro dall'Europa per il progetto Garanzia Giovani. È un'ennesima occasione, sono fondi destinati ai ragazzi tra i 15 e i 24 anni. Il problema principale è non sprecare questi soldi. Ecco, Michele Verna, direttore generale di Assa Lombarda. Ci vogliono idee chiare su che cosa fare. Buongiorno, mi dice che cosa fare subito? Allora, intanto buongiorno Minoli, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io credo che prima di tutto non bisogna perdere tempo, perché la Spagna, che è in condizioni simili all'Italia, è già partita il 1° dicembre, noi siamo all'inizio marzo e non siamo ancora partiti. Siamo soddisfatti che ieri il nuovo ministro del lavoro Poletti ha incontrato le regioni. Mi risulta che il 19 si rivedano e possano decidere concretamente. Operativamente, cosa fare. Sì. Io credo che ci sono tre ricette molto semplici. Prima di tutto, la Garanzia Giovani non è un programma di occupazione, ma è un programma che riguarda le politiche attive del lavoro. Cioè, dobbiamo insegnare ai giovani cosa serve per trovare lavoro, che competenze sono necessarie per le imprese. Secondo? Il requisito è quello dei NET, che vuol dire not in employment. Certo, sì, sì, i ragazzi che non lo trovano e non lo cercano più il lavoro. Esattamente, quindi sono ragazzi che da 15 a 24 anni di fatto non studiano, non lavorano, stanno a casa. Questa è una piaga sociale. Abbiamo 1.300.000 ragazzi tra i 15 e i 24 anni che si trovano. Ecco, senta, ma noi siamo sicuri di non mettere in piedi una nuova macchina burocratica inefficiente come quella sui fondi strutturali? Lei Minori ha ragione, noi consideriamo che oggi i centri pubblici per l'impiego collocano solo infatti ne parleremo, sì, delle persone che trovano lavoro. Il fondo sociale europeo fino ad adesso è stato usato in 1.000 rivoli, quello che noi raccomandiamo come imprenditori è di concentrare questi soldi. Ecco, quali paletti ci vogliono perché gli assessorati regionali non sprechino questi soldi? Quali sono i paletti? Intanto dobbiamo dire che le imprese, i giovani sono diversi territorio da territorio, i mestieri di una regione sono diversi da un'altra, quindi ci vuole una necessaria flessibilità nelle convenzioni tra Stato e Regione, questo è il primo punto. Il secondo punto è concentrare tutti i fondi regionali per i giovani in quella che per esempio in Lombardia è stata definita la dote unica e premiare a risultato, cioè cosa significa? Se ci sono delle agenzie per il lavoro che siano esse pubbliche o private, si premiano queste agenzie una volta che hanno trovato ai giovani un'occasione di sviluppo, un'occasione di lavoro, un'occasione reale di formazione. Dottor Verna, bisogna mettere il telefono un po' più vicino alla bocca. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Patrizio Caligiuri, capo di gabinetto dell'assessorato del lavoro, chiamato in causa in qualche modo dalla Regione Lazio, esperto del progetto Garanzia Giovani, collaboratore anche della stesura del Job Act. Secondo Tito Boeri su Repubblica, ieri il piano messo in piedi dal ministro Giovannini era una scatola vuota che lasciava troppa libertà alle regioni nella gestione dei soldi comunitari. Ecco, secondo lei, i paletti proposti da Verna vanno bene per evitare gli sprechi? Sono un primo passaggio? Sì, intanto buongiorno. Dottor Minoli, buongiorno al dottor Verna. Ma io non darei francamente un giudizio così drastico sull'operato del governo nei mesi scorsi. No. Mi sembra insomma un giudizio un po' viziato da un pizzico di pregiudizio sull'operato delle regioni. Ci ho detto, è vero che si sono accumulati un po' di ritardi nei mesi scorsi, è vero che nelle ultime settimane mi pare che gli sforzi vadano nella direzione giusta. Quello cioè, che i paletti dicevo sono buoni, quelli che sì, dice Verna. Io penso di sì, penso che siano necessarie due cose fondamentalmente. La prima è certamente quella che ricordava il dottor Verna, cioè lasciare alle regioni quel margine di autonomia per integrare le misure sulla garanzia giovani alle politiche attive già esistenti in ogni singola regione, anche calibrandola in base alle esigenze specifiche del territorio. E questo è certamente una. Il secondo, su cui noi abbiamo detto più volte come Regione Lazio, che esiste un'esigenza di spostare quanto più possibile le risorse della Garanzia Giovani sulla ricerca, sull'opportunità di ricerca di un lavoro piuttosto che sulla formazione, altrimenti qui ci impantaniamo di nuovo in mille denari spesi per una formazione che poi rischia di essere inefficace ai fini della ricerca di occupazione. Però insomma mi ritrovo, diciamo, da questo punto di vista mi ritrovo perfettamente in quello che diceva. Ecco, però sentite anzi tutti e due questo colloquio reale di un centro d'impiego. Vado al centro per l'impiego stamattina, vado anche a un paio di agenzie interinali. Hai un curriculum, Alessandro? Sì. Hai con te anche una fototessera? Sì. Sei automunito? Sì. Preferiresti lavorare part time o full time? Preferirei il full time. Ma accetteresti anche ruoli differenti dal tuo percorso di studi? Sì. Ok, quindi facciamo un'iscrizione da oggi come disoccupato e io le consegnerò una scheda anagrafica. Allora, il grado di lettura dell'inglese? Intermedio, facciamo intermedio. Post-intermedio. Post-intermedio. Ok, come lo scrive? Post-intermedio. Come lo parla? Avanzato. Avanzato. Allora, verifichi la correttezza dei dati inseriti, se è tutto corretto metti una firma qui. Vedo che sei laureato in conservazione dei beni culturali. Sai che ha pochi sbocchi professionali. Abbiamo la voglia di costruirci un qualcosa, di avere un avvenire, di avere la possibilità, speriamo di avere la possibilità di poter andare avanti e soprattutto di trovarlo questo benedetto lavoro. Vedo che lei ha avuto appunto varie esperienze. Brevemente, se me le può un po' elencare. Animatore, cameriere, pubista. Ho lavorato al cinema sia come maschera che come cassiere. Se ti proponessi come mansione o comunque per iniziare con un operatore call center, ci chiedono personale per una settimana, anche a volte per un mese, per sostituzioni. Però sempre a tempo determinato, almeno iniziale, che può essere variabile di uno o due mesi e poi dopo non si sa. Ho tanto da dare come lavoratore, l'unico problema è che ancora non sono riuscito a trovarlo. Quando si aprirà qualche offerta che pensiamo attinente in base alla chiacchierata che abbiamo fatto, ci sentiamo telefonicamente per un riscontro, per darti l'esito del riscontro da parte dell'azienda e poi fissiamo l'appuntamento direttamente in azienda. In bocca al lupo. Ecco Caligiuri, è con metodi come questi che si aiutano i giovani a trovare lavoro? Questo capitava a Caserta. Ma guardi, se posso, sì, io deve. Questa insomma, io vorrei evitare che cadessimo tutti quanti in questa retorica dell'inefficienza dei centri per l'impiego. No, ma io per questo ne voglio parlare. Appunto, allora è evidente che dipende che tipo di missioni gli si affidi al centro per l'impiego. Nel senso che qui, se noi pensiamo che il centro per l'impiego, i nostri centri per l'impiego possano fare effettivamente il matching, come si dice, tra domanda e offerta di lavoro, è evidente che non lo possono fare. Ciò detto, esiste una situazione a macchia di leopardo, dove ci sono anche punte d'eccellenza. Sì, nelle persone. Però, dottor Caligiuri, in realtà le statistiche ci dicono che i centri per l'impiego hanno un tasso di collocamento del 4%, le agenzie per il lavoro del 47%. Vabbè, è qualcosa lì nel... Non c'è dubbio, non c'è dubbio, però ripeto, è un problema di missione che si affida. Sì. Allora, noi crediamo che il centro per l'impiego, i centri per l'impiego debbano essere la porta d'accesso, la principale porta di accesso per un giovane o comunque per un disoccupato al mercato del lavoro, e che il centro per l'impiego faccia tutta la prima fase, la schedazione, la profilazione, eccetera. E poi l'incontro tra domanda e offerta deve questo sì essere affidato ad agenzie private specializzate, anche perché, concludo davvero su questo, una battuta sola. I nostri centri per l'impiego, non facciamo il paragone con la Germania, rispetto alla Germania sono sottostaffati, siccome noi non abbiamo come sistema paese in questo momento risorse sufficienti, bisogna essere chiari su questo, per riqualificarli e immettere ulteriore personale, perché non ci sono tali risorse, dobbiamo necessariamente chiedere il sostegno delle agenzie private. Si ecco, dottor Verna, dottor Verna, la formula della collaborazione tra pubblico e privato, quale può essere? Allora, guardi, io capisco il dottor Caligiuri, però qui bisogna parlare di fatti. Appunto. Se noi vediamo tutti i costi delle agenzie pubbliche per il lavoro, centri pubblici per l'impiego, quello, e contiamo il costo del personale, il costo di struttura, per le persone che collocano, vuol dire che ogni collocato costa allo Stato italiano 13.000 euro. Consideriamo che un'agenzia privata per il lavoro colloca 4.000 euro un quadro specializzato, quindi evidentemente anche in termini di uso delle risorse un sistema di voucher a risultato in cui si responsabilizzano le agenzie private è necessario. È necessario, certo. Il secondo punto che è necessario è che la scuola e non i centri pubblici per l'impiego faccia orientamento. Oggi come oggi non si fa nelle scuole medie, superiori orientamento in modo sufficiente. E quindi bisogna ripartire dalla scuola, anche lì. Ecco, però il piano Garanzia Giovani è destinato alla fascia 19-24 anni, mentre in Italia il problema numero uno è per i giovani fra 30 e 35 anni. Questi fondi si possono usare anche per loro, Caligiuri? No, il piano Garanzia Giovani purtroppo in questo momento non ci consente di usarli per la fascia, per capire. E allora come possiamo fare per occuparci di loro? Che sono il problema numero uno. Questo purtroppo è un problema tutto italiano, perché noi ci laureiamo più tardi dei nostri colleghi e c'è un pezzo di generazione, che è la nostra, non la mia per capirci, che ha beccato in pieno la crisi. Allora, io credo una cosa, credo che intanto vada ripensato a livello di sistema paese il meccanismo di incentivi fiscali e contributivi delle imprese, perché noi ne abbiamo troppi che insistono sugli stessi target di età e non c'è nulla, ad esempio, per la fascia di età 30-40. E quindi bisogna spostare queste risorse. Bisogna spostare queste risorse. Ma non diventano aiuti di Stato a Bruxelles queste risorse spostate? Allora, guardi, intanto se connessi alla formazione no. Dopodiché probabilmente è anche il caso che cominciamo a dire, a discutere con Bruxelles di come dire, anche noi possiamo fare operazioni per immettere un po' di denaro pubblico e far ripartire il nostro sistema. Perché in Spagna, Germania, Francia l'hanno fatto, appunto, no? Appunto. Verna, d'accordo lei? Ma guardi, io credo che dobbiamo guardare all'estero e dobbiamo vedere... No, appunto su questo esempio. Spostamento, insomma ottenere a Bruxelles di poter essere più elastici nella gestione di questi fondi. La sento male, dottor Verna, la sento male. Ecco, vicino, così, ecco, grazie. Dicevo, Minoli, che del 1,5 miliardi di risorse, 567 milioni sono eccezionali e straordinari per la Garanzia dei Giovani, ma 500 milioni sono del Fondo Sociale Europeo che non hanno questo vincolo di destinazione. L'altra cosa che io sottolineo è che la semplificazione delle regole di accesso al lavoro, quindi la semplificazione di strumenti come la flessibilità in ingresso e dell'apprendistato, riguarderebbe giovani che vanno al di là della fascia d'età di 24 anni e che le imprese, in un momento in cui la burocrazia è molto pesante, considererebbero diversamente. Ecco, Caligiuri, sì. Volevo dirle, mi può dire se si prevede qualcosa di preciso al riguardo nel Job Act? Ma guardi, io credo che lì nel Job Act, adesso per quello che mi consta, poi adesso naturalmente il ministro Poletti dirà cosa certo. intende fare sul tema, io credo che lì ci sia qualche spunto interessante dal punto di vista del ripensamento, diciamo così, del sistema del placement e dello spostamento di risorse dalle politiche attive a quelle passive. Cioè, noi spendiamo come sistema complessivamente troppo per le politiche passive e davvero troppo, troppo poco per e le lì politiche ci sarà, attive. E quindi ci sarà un'inversione. Ci abbiamo Maria Claudia, su Agenzia dell'Impegno, al telefono. Maria Claudia, buongiorno. Buongiorno a lei. Io velocissimo. Rapidamente, volevo solo, grazie. Sì, volevo solo mettere in evidenza un atteggiamento che trovo veramente scorretto. Mio figlio 28 anni in un mese ha sostenuto, per fortuna, 15 colloqui e pare che uno forse stia andando a buon fine. Però quello che trovo assolutamente scorretto è che da parte delle agenzie quasi mai venga dato poi il riscontro a questi ragazzi di come può essere andato un colloquio. Ah, grazie. Ecco qui una risposta, Caligiuri. Ma sì, tra l'altro, guardi, sul rapporto di collocazione tra centri per l'impiego e agenzie, più in generale sull'atteggiamento, c'è anche da dire una cosa: le agenzie hanno fino adesso la fortuna di poter in qualche misura scegliere i soggetti da collocare, il centro per l'impiego no. Io su questo penso che la dote di cui che suggeriva il dottor Verna o il sistema che stiamo impiantando nel Lazio vada nella direzione giusta, quindi pagamento al risultato effettivo e riscontro concreto e quindi i voucher. Ai soggetti. Certo. Una battuta finale, Verna, se ha 10 secondi. Allora, io la battuta finale che dico, credo che in Europa noi possiamo chiedere un'estensione straordinaria della Youth Guarantee anche per giovani fino a 29 anni. Seconda battuta finale, culturalmente bisogna lavorare sulle famiglie perché in Italia c'è carenza e mismatch e ricerca di operai specializzati e tecnici e c'è eccesso di lauree umanistiche, quindi dobbiamo quindi riequilibrare il rapporto fra la domanda e l'offerta, insomma. Dobbiamo spiegare ai genitori dei nostri ragazzi che studiare negli istituti tecnici professionali non è di minore rilevanza rispetto a studiare nei licei. Che poi è un problema di dignità sociale, però anche di ridare una dignità sociale a certi lavori che l'avevano persa. Però diciamo che in Germania questo è stato fatto dal 2009 e questo ha consentito alla Germania di brillantemente superare una crisi profonda che è quella dovuta alla crisi del 2008. Quindi dobbiamo investire sulle professionalità tecniche e specializzate. Grazie. Mix 24. Quella curva è sempre più distante. Pietrangelo, eccomi. Francesco De Gregori. Ma è di sinistra. Chi? Mamma mia. Francesco De Gregori. Ah no, è tuo amico. No, è un amico. È un grandissimo. No, ma insomma, rispetto alle canzoni solite c'è una novità. Ma no, ma poi perché dovremmo mettere queste etichette? Ma non ce ne frega niente. Va bene. Io poi, povero me, che non ho avuto mai un'etichetta. Ah, neanche se non io, quella del cattiverio. E quindi, a proposito di cattiverio, il bandito è il campione. In questo caso mi prendo la particella del bandito e il campione è sempre Francesco De Gregori. Che meraviglia. Siamo le bolle. Fuck the EU. Fuck the EU, wow. E questa è la Victoria Nuland. Era la famosa telefonata quando la crisi con l'Ucraina e la Russia, e soprattutto la rivoluzione in Ucraina, stava bollendo, è il caso di dire. Sapete tutti com'è andata, poi i russi hanno invaso la Crimea e noi stiamo in mezzo. Ma stare in mezzo che cosa significa? Insomma, da una parte sì, ma anche dall'altra. È una caratteristica italiana. Qualche volta è un vantaggio, perché Roma sta in mezzo e quindi sarà oggi il centro, diciamo, di un incontro che si svolge in realtà ai margini di una conferenza internazionale sulla Libia. Partecipano certo, molti infatti, ministri degli esteri, Fabius, Steinmeier e così via. Però diventerà importante, diventerà anche molto per importante, perché si vedranno Kerry e Lavrov. Ieri Kerry ha espresso, diciamo, quello che i cronisti chiamano il cauto ottimismo. Ma vediamo un po', in realtà la cosa è molto più complicata, vediamo cosa spunta. No, ma ecco, ma tu diciamo Crimea. Una cosa in più. Tu cosa ti aspetti? Io mi aspetto che Putin come prima mossa sostenga il referendum della Crimea, dove la maggioranza è russa e quindi di fatto si aprirà la cosiddetta autodeterminazione e tu, Pietrangelo, ti aspetti qualcosa da questo incontro? No. No, perché sicuramente tutto quello che è già stato fatto è deciso e queste saranno soltanto chiacchiere per accontentare l'opinione pubblica. Poi le decisioni finali arriveranno dopo. Una cosa che vorrei segnalare è questa doppia candidatura per il Nobel della pace al Papa e Putin. Ovviamente Putin se ne fa un baffo dell'idea di ricevere o meno il Nobel. Forse anche il Papa. Papa è materia sua. Guarda che se non ci fosse stata la questione dell'Ucraina e della Crimea, per il 2013 Putin, che se ne dica, quando ha impedito la guerra in Siria, era diventato l'idolo dei signori pacifisti. E lì erano quindi, il Papa e Putin insieme. C'erano il Papa e Putin. Andiamo quindi, avanti insomma, con le nostre bolle. Anzi, Tardelli, tu ho una canzone? Una canzone da farvi sentire. C'è chi un giorno invece ha sofferto e allora ha detto io parto, ma dove vado se parto, sempre ammesso che parto. Ciao! Ciao, parto. Ma per Putin o Kerry? Erano cocchi e Renato sì. Erano cocchi e Renato. È la grande tradizione milanese dello spettacolo e dell'arte. Come si chiamava il... Il pipe, no, quello no, è Roma. No, com'era? Beh, non me lo ricordo, il locale famosissimo. Derby! Il derby era. Il derby, il derby che non era Milan-Inter, ovviamente. No. Mamma mia, che battuta. Collega Batantuono, che era figlio della... Sì, Cocchi e Renato, tutti. Stiamo tirando fuori grandi ed elevati livelli e riferimenti culturali, vedo, stamattina. È perché ci dobbiamo preparare un'atmosfera speciale nella nuova Italia. Ecco. Ma butta fuoco. Dimmi. Guarda, con tutta l'amicizia fraterna che c'è tra noi. Dimmi tutto. Ma cosa avete combinato voi siciliani ieri con Renzi? Cos'era questa cosa? Beh, certo, davvero un po' esagerata, caro Pietrangelo, tu ce l'hai sempre con sti siciliani. Ma non ti vergogni? Ma cosa? Che c'entro io? Come che c'entro io? A Siracusa, nella scuola. Appunto, quei fanciullini che sembravano via Cesare Battisti, Padova. Chiama Memona. Sei di Padova? Certo. Si è convertito improvvisamente. No, ma che c'entra con questa storia? È una vergogna. Avete fatto l'inno a persona. Figurati, queste sono le tipiche cose meridionali di aspettare lo zio d'America e il meccanismo solito. Beh, io però direi che ai piccirilli non è che gli devi fare cantare questa cosa. Affido ancora una volta ai bambini un hit, come si diceva una volta ai tempi delle hit parade, ed è Cala la panza. Imparate la memoria. Il giro della trottola è il salto del canguro, il volo della lodola, le mani contro il muro, il passo del cammello, il gattero che rema, il topo e pazzerello e l'elefante tre. Manca il catalogo. Ali Cammello, ma loro lo troveranno adesso. Questa no, io cantavo il Cata Ali Cammello, ma sai. Che vuoi farci? Vabbè. Mi aggiornerò. C'è Minoli che ci guarda sempre più perplesso. Proviamo a dire qualcosa di interessante. Qualcosa di interessante viene dalla Cina. Grandissimo pezzo di Pat Metheny, per gli amanti di questa musica bella, rarefatta, particolare, piena di suggestioni, è solo un grande piacere. E perché la Cina, Giovanni e Pietrangelo e cari ascoltatori? Perché le ferrovie di Pechino cominciano ad aprire agli investimenti privati. Ora fanno il loro Italo? Fanno il loro Italo, ma fanno molto di più, perché puoi immaginare le centinaia di chilometri di strada ferrata, di infrastrutture che sono da fare. È un segno dei tempi, perché qui sono pubbliche e, diciamoci la verità, in un sistema ancora protezionistico, oligopolistico, eccetera, e là sempre più vicine, diciamo, a quello che dovrebbe essere un po' lo spirito, cioè l'ingresso di capitali e così via, del capitalismo. Dunque segnalo in questo caso un bellissimo libro di Giovanni Arrighi, un saggio di economia molto interessante, che si chiama, è uscito qualche anno fa in realtà, però io ogni tanto lo riconsulto, si chiama Adam Smith a Pechino. Mm-hmm. Ed è fantastico, perché disegna quello che qui qualche volta diciamo spesso, cioè che è il tempo dell'Oriente. E dunque chi vuole capire perché la ricchezza si sta spostando là, si lega, lega questo libro. Intanto noi ci facciamo i salamini. Oggi i salamini sono una buca delle lettere e io ricevo dal maestro Paolo Isotta questa lettera dal titolo Reparto Traditori. Scrive il maestro Paolo Isotta: mi trovo oggi in una delle più grandi librerie milanesi. Vedo esposto il libro di Quagliariello e Sacconi con, ciliegina sulla torta, prefazione di Angelino Alfano, I Moderati. Mazzo. Dico al accidenti. Giovane, I Moderati. Dice ancora il maestro Isotta, dico al giovane inconscio commesso, quanti milioni di euro date a chi ne prende una copia? Perché, fa lui, quante copie ne avete vendute? Glielo dico subito, apre il computer e cerca, nemmeno una. A fianco di questa preziosa opera campeggia il volume di Gianfranco Fini. Dice il maestro Isotta, nella libreria hanno già il reparto traditori. E a questo proposito io scelgo una canzone dei mitici Squallor. Mi sono nascosto per 1973 anni, ma sono uscito alla grande. Mi chiamo Scariota Giuda. Ho fondato un ristorante della Madonna che si chiama Al Traditore. Beh, questa volta proprio dai su, divertente. Ci occupiamo di sport. Noi ci tiriamo anche un po' sul morale, spero che i nostri ascoltatori scusate, gli gradiscano. Il maestro Isotta giusto in questo momento mi fa sapere che non vuole essere più chiamato maestro, bensì chiamatemi Mona. Poi tu, lui è diventato Padovano, ma tu sei come... No, lui è pur di dissociarsi dal viaggio. Sì, no, ma la cosa bella è che tra Sicilia, lui, tra Buttafuoco, oramai è Padovano. Tra Buttafuoco e Isotta c'è una relazione speciale, come tra Regno Unito e Stati Uniti, quindi è interessante. Avete la linea ancora diretta. Più speciale, come ecco. La Russia e la Crimea. Perfetto, ci siamo. Andiamo avanti. E basta con sta mina, ci ha rotto la minchia. State attenti, fratellastri, che state giulando l'undicesimo comandamento della Pippia. Dedica la domenica in Milan. Attenti che è finita all'inferno, in mezzo ai diavoletti, state attenti. Oh, allora, Maltantuono sul Milan e ci vuole. La parola d'ordine nei bar sport oggi è una parola, è un cognome, un nome francese di una grande famiglia francese che è Lazare. E tutti, io mi immagino le discussioni, certo. Adesso io non so imitare così bene un brianzolo, ce ne abbiamo uno in regia, se volesse anche provarci sarebbe l'ideale, fa segno col ditino. No, per contratto non può parlare. Non può parlare, è Alessandro. Vabbè, insomma, c'è questa grande banca d'affari che è incaricata, pare, ma io penso che sia abbastanza fondata la cosa, di vendere il Milan, comunque di sondare la cessione. Ora, Che cos'è la SAR però? Perché tutti dicono, vabbè, che cos'è? È una banca d'affari, ovviamente, fa molte attività di consulenza finanziaria, eccetera, è stata fondata da tre fratelli francesi emigrati a New Orleans, esiste in 40 città e 26 paesi. Va bene, paesi. Vedremo. Intanto il canzoniere di oggi, prima della pubblicità. Vai Pietrangelo. Cupole, portali, fontane, opere che prima di essere attuate e compiute tennero aggrottate per anni la fronte di Michelangelo o del Borromini, non riuscirono a farsi minimamente notare dall'occhio mobile e nero dell'ospite meridionale. Antiche campane dalla voce grave e delicate che si guadagnavano un che camorria sta campana. Mix 24. L'unico motivo per cui tutti continuano a vivere come dei re è perché noi spostiamo l'ago della bilancia in loro favore. Ma se non lo facciamo, beh, tutto il mondo diventa improvvisamente giusto, cazzo. Ma nessuno lo vuole davvero. Dicono il contrario, ma ti assicuro che non è vero. Vogliono quello che noi abbiamo da dare loro. Ma vogliono anche fare gli ingenui e fingere di non sapere da dove venga. Allora, era Margin Call, uno dei tanti bellissimi dialoghi di questo film sull'alta e bassa finanza. Io invito sempre tutti a vederlo, lo trovate ovviamente a noleggio sul bouquet di Sky ancora per un po', credo. Insomma, è molto interessante per capire alcuni meccanismi di uno strano mondo che a volte si fa molto esoterico e in realtà non lo è. Perché abbiamo usato Margin Call? Per introdurre il tema della grande bolla tecnologica. Qui lo stiamo dicendo da tempo, invitiamo tutti alla prudenza. Ovviamente investire nel settore tech è importante, però tenete d'occhio alcuni indicatori e fondamentali. Intanto segnaliamo che l'indice Nasdaq Composite ha toccato il picco come nel 2000, quando poi in quell'anno a marzo scoppiò la bolla tecnologica. Se provate a tracciare un grafico con tutti i valori, vedrete che c'è un'impennata pazzesca, che c'è un parallelo sostanzialmente tra oggi e il 2000. Quindi tu, anche se i contenuti sono aumentati, i contenuti sono aumentati, ci sono imprese che sono arrivate finalmente a redditività, ci sono certamente le cosiddette case history molto importanti, però attenzione, io vi do un dato sul quale riflettere. Facebook ha pagato WhatsApp per 19 miliardi, che sono pari a 345 milioni a dipendente. Mamma mia, vedete un po' voi. 345 milioni a dipendente, professore. Eleonora da Venezia, buongiorno, lei ha indovinato il nostro gioco? Beh, spero, è il Bell'Antonio. Giusto, bravissima. Che caporria ste campane, giusto. Complimenti. Un Feltrinelli. Grazie. Per lei. Brava. Grazie mille. Professor Simonelli, lei aveva indovinato naturalmente, sempre. Io avevo indovinato e sto pensando anche che bisogna sgominare questo clan dei siciliani che sta monopolizzando. Ma quale? Veneto siamo. È Veneto lui, è diventato di Padova. Dopo ieri, perché non possiamo più dirci siciliani? Ieri sera dov'era il canale, professor Simonelli? Sentitelo un po' dov'era, non poteva che essere lì, sentite un po'. L'incendio. Dimmi che fai, silenziosa luna, Silvia, rimembri ancora. Allora, professore, siamo a Carmelo Bene la miliardesima volta? Sono Rai 5, ma doppio, prima... Doppio! Prima i canti orfici e poi, no, questo è importante, sì, una nuova trasmissione, Icone, che racconta la vita parallela, insomma, di due grandi del teatro italiano. Insomma, questo Rai 5 è il servizio pubblico. Questo Rai 5 è il servizio pubblico, sì. Mi immagino guardarlo pubblico con la fidanzata, cosa deve essere? Carmelo Bene e Paolo Poli. Vabbè. Carmelo Bene funziona benissimo. Perché, insomma, questo racconto del palcoscenico italiano del Novecento, ma c'era anche una novità, sia per Carmelo Bene che per Paolo Poli. Non si parlava solo di teatro, anzi si parlava molto della presenza di questi grandi autori e attori in televisione. Per esempio si recuperava la storia di un programma televisivo che ebbe grandi guai ma anche grandi successi, che si chiamava Babau, che di Paolo Poli, che doveva andare in onda nel 70, poi fu censurato. Eravamo ancora tutti da nascere, professore, quasi. E soprattutto 70, Carmelo Bene, nelle sue incursioni televisive, che lei conosce bene, Minoli, certo. Incursioni al processo di Biscardi, incursioni a Domenica Inn, incursioni a Mixer, la famosa litigata con Davico Bonino. Certo. Allora, un Carmelo Bene anche inedito, non solo quello di Otello, di Amleto, di Leopardi, ma un Carmelo Bene che parlava con Biscardi, che parlava con Bagnasco, che parlava un po', parlava con Chiambretti, parlava con la televisione. Grandissimo Carmelo Bene. Che ci spiegava il perché. Però non solo questo, posso ieri sera, una cosa? Certo, prego. Allora, ieri sera è andato in onda in replica, perché è cominciata la sera prima, ma Sky Cinema replica anche i film, e c'è un film molto importante che si chiama La cuoca del presidente, un film di Christian Vincent, un film francese, che è la storia di Daniel Mazet del Push, che è stata la cuoca di Mitterrand, una signora che amava cucinare le pietanze del suo territorio, che è il Périgord, il famoso territorio. Professore, siamo in chiusura. Dei tartufi, e che ha fatto per anni, con le ovvie difficoltà, la cuoca di Mitterrand. E sapete chi interpretava Mitterrand? Jean d'Ormesson. Allora, questo film, in una televisione che parla molto di cibo e ne parla più delle volte male, era una cosa assolutamente da vedere. Ah, bene, grazie professore. Oggi Sara Tardelli, che ha curato 3D naturalmente, ci fa scoprire una nuova trasmissione. Ha intervistato Matteo Curti, che è l'ideatore del programma Lorem Ipsum. Matteo Curti, tu hai inventato un programma che si chiama Lorem Ipsum, ma quando hai capito che i frammenti dei filmati che tu guardavi su YouTube potevano diventare il tuo programma? Guarda, l'ho capito leggendo un articolo del Post che descriveva le abilità dei politici italiani alle prese con l'inglese e intervallava dei frammenti scritti ad alcuni video che appunto facevano ascoltare l'inglese parlato da questo o quel politico. Ho provato a fare la stessa cosa con altre cose. Ho iniziato con i gattini, con i cani, perché insomma loro sono i veri dominatori del web. La cosa ha funzionato. Che cosa aggiungi tu ai filmati? Ma quello che cerco di trovare è un filo logico che li unisca. Io cerco di trovare un ordine, poi non riuscendoci o facendolo solo parzialmente, per tutti quelli che sono dei video che vengono raggruppati sotto le stesse componi le tessere di un mosaico. Lorem Ipsum, ma che titolo è? Ma guarda, Lorem Ipsum è una parola che fa parte di un testo che viene utilizzato dai grafici quando le pagine web non sono ancora definitive. Una pagina che poi un giorno diventa un giornale, un blog, può diventare YouTube, può diventare Facebook. All'inizio, quando doveva essere ancora approvata, Lorem Ipsum era scritto anche in quella pagina. Il virtuale, no? Tu hai a che fare col virtuale dalla mattina alla sera. Però non è una progressiva atrofia in ogni senso dell'essere umano? Beh sì, diciamo che serve intelligenza per prendere le distanze, perché è molto seducente, anche perché a seconda la pigrizia, quindi bisogna sapere che quello è un pericolo, bisogna conservare un ruolo attivo e prendere da ciò che è virtuale soltanto spunto. Ma così non rischiamo di diventare spettatori e non più protagonisti della nostra realtà, della nostra stessa vita? Ma certo, è veramente un dramma, anche perché l'ansia di documentare e quindi avere quel minuto di popolarità che appaga la vanità, no? Di essere poi gratificato online con un click, con un like, eccetera, ti impedisce di godere delle cose. Ne hai una prova tangibile ai concerti, per esempio. Se tu vai a vedere un artista che si esibisce sul palco, vedrai che la maggior parte di chi è in platea ha un cellulare per riprendere, no? E quindi si sta perdendo il momento emozionante che sta vivendo, che ha proprio lì davanti agli occhi, per differirlo poi a un momento successivo in cui lo può condividere. Sì. E tu come fai invece a sopravvivere al web? Conservo uno scetticismo e una distanza che un po' mi salva. Grazie mille Matteo, in bocca al lupo, grazie. Oggi Marina Milone ci racconta una storia drammatica che è diventata un bellissimo film. La Ciociara è la storia delle marocchinate, la storia delle donne vittime della violenza nel 44 in Ciociaria, la storia appunto che ha ispirato De Sica. Ne parliamo anche con l'autrice di questa bellissima storia, Marina Liuzzi.